recognizable to myself. Saw my reflection in a window, and I didn't know my own face. Brother, you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Svaniti e poi la notte batte un sangue alle mie vene, mio bene, mi suo accondere sussurrando agli umareggiato in le strade di Villa delle Fie. Mi facevi già, so, la vita mia.